Do you gentlemen speak English? Do you have a copy on JR in the USA, over? What is your country? I am in the USA, my friend. What is your country? Oh, you're in Canada. Well, okay, I'm down here in the state of Ohio on Lake Erie on the U.S.-Canadian border, over. Microwave Island, East, West, Eastern Quebec. Sounding real good, making a good trip down here in the state of Ohio, my friend. Have a good day. JR in the U.S.A. My name is JR. I'm clear. 004 Mobile. Good copy. And you as well. Okay. Hello, hello, hello. Buongiorno. There was a woman in there I was speaking to. I think she was a woman. And these radio conditions, you never know where your signal going. They were bleeding knees. I found them. I don't know. He said Eastern Quebec. Bring that back. Were you speaking to me? Go ahead. My friend, but I don't have the best copy on you. Bonjour from the USA. Okay, my friend, you said 5/8. I don't know what that means. You said 5/8. I don't know what that means, but hello to you. Have a good day. I'm standing by. Okay, 5/8 in central Italy. My fault. Buongiorno. 5/8 central Italy. JR in the USA. Back to you. I think he says your name is Christian, but I didn't get your city. But hello, Christian, JR in the USA, my friend. Okay, my friend, you still had a big signal. Take care, my friend, I have a big signal on you as well. JR in the USA standing by. Hey, hello, my friend that's calling the USA. Hello, to you, my friend that's calling the USA. JR in the USA, back to you. I'm going to get home. Qualcosa, che ci devi dire tu io al capocantiere, qua non si può lavorare. anche come sono grandenti. Sì, infatti, quando mai chi ci piacciono i pannelli e non piacciono un paio di pannelli, non dica sai, un paio, tanto di alimentare una batteria, la cosa, la una soffetta. Ha rimasto baccagliissimo uno. Ma senti mi fa di prendere davvero la luce. E sono successo a 3 gradi la notte. E poi sono a Trucco Reale, pensato che tutto a bici chili. Infatti lì è una ballata ed è un casino. Ah no, ma vi dico. O cambiano le cose, se no si va a pigliare i tuoi paesi tutti e tre. La nostra ricca, perché se piantavano i pannelli la mattina caricavano e la notte usufruivi, no? Cosa vuol dire caricare? Non è proprio una meta, per la raga i lucifici se lo fanno niente, anche non vado io. E quello è poco ma sicuro. Cattolo. Dovrebbero essere quelli che comandano a te a dirglielo. Cattolo mio, la guardia si rifiuta e poi ve lo fate voi il servizio. No, tutti si rifiutano, anche tutti quanti siamo così. A cavolo non avevamo già le palle piene, se che cazzate, no? Aspetta se viene torna chi viene di con quattro, quello della sicurezza. Gli dico, è questo che siamo senza corrente, non è sicurezza. Gli dico, ma lì tu ha fatto lo servizio. Infatti, questa è sicurezza. È un agente di sicurezza deve stare anche, insomma, riparato, no? Non in queste condizioni. Qua la notte fanno 3 gradi, lei è addormentato nel suo letto. Invece noi siamo qua, la Rio di Cuba. Guarda, se torna bene domani mattina e domani alle 2 che ci sarò io, ve ne dico qua, tu ya, cazzo di spacca che non le manco rimane nello collarino, puro. Ma no, quello non lo devi fare, se no dopo dalla ragione passi al torto. No, me ne frega niente, almeno mangio e bevo una tariffa. Allora cosa abbiamo detto? Che ve la mettono la corrente o che no? Che non c'è niente da fare. Ancora non si sa, ci vuole tempo, detto, ci vuole tempo. Io fino al 31, se non mettono la corrente, gli dico, ecco, vedo una cosa. Vedivi gli servizi voi, chiedi voi a di voi, chi vi hanno prete, poi mi date risposta a vedere se lavorate. Non penso molti, poi se non uno non è abituato a cacciare a fuggizzini. Ah, paga, non ci rimane nessuno, se poi non c'è altra gente, cazzo che non le capisce una mazza. In chi vivevo un gabbiotto e la ciuffa baccagliissi uno, e se non la ciuffa che altra cosa baccagliissi, e se no ti dividiamo una gasolio e non c'è bisogno della corrente. Logicamente il gasolio lo mettono loro. Cazzo. Lei viveva con quelli sul conto di Ruggero Sene, cos'è? Continua. Ah, cazzo, poi c'era un altro, il gruppo lo mettiamo e poi no, il carosene ve lo dovete mettere voi. Ma cazzo, stai scherzando o sul serio sì? Ma se stai scherzando è un conto, ma se sei sul serio, guarda, sto già partendo da qua. Quello essere lui. Sono quelli zene che si attaccano ai mari, conmigo. Poi degli altri si fanno prendere per il culo, a me non mi interessa un cazzo. Stasera non è entrato anima viva. Tutti a letto, sono tutti a dormire, anima viva, tutti con la vece bilusi sono, Natali, lascia perdere. Natali, come mi ascolti con questa radio? A bomba, Manuè. E adesso ho provato a pulirlo, sono microfono, ma è gracchiante o è saturato? No, no, ti sento benissimo. Secondo me... Adesso stai uscendo veramente bene. Un attimo, sto scrivendo il numero di telefono, Manuè. E vai tranquillo che adesso lo chiudo, ora metto il coperchio. adesso esce forte quel telefono, è chiaro esce con quel microfono adesso, forse era sporco. E adesso lo sto chiudendo, poi lo rimetto, più forte di questa, sì. Più forte adesso. Loro vogliono che io ti sento proprio come avessi un'antenna sul tetto. Ma l'amplificata a base. Adesso è bella, bella forte la radio, chiara, non ha nessun difetto. Come che stai usando un microfono preamplificato, sembra. Bella forte. Ecco qua, è proprio piccata. Fai su di Dio, però vai c'è dire. L'ho pulito, ho dato una muffata. Adesso era un po' sporco. Adesso toccavo qualche contatto, qualche filo. Adesso sta uscendo bene. Benissimo, adesso sta uscendo benissimo. Anda bene nera. La voce già è bella amplificata adesso, dai. Sì, dal giorno alla notte cambia. Prima eri basso, mi eri più basso. Era il microfono normale. C'avevo il microfono normale. Ma lì c'avevi da voce. Andava bene nera. Sì, mi sta dando che esce bene, sì. Sì, andava. Sì, perché deve essere, ho toccato qualche filo, perché dice che gracchiava, mi hanno detto. No, gracchia più, no. Vabbè, andiamo di bene. Sì, vedo così, dai, vedo così. Anche se non si dà prodotto da qualcosa. Vai così, io ti dico, Manuele. Certo, paghi su di qua, è la frequenza, non ne vale la pena. Ma stasera che sta facendo il tempo del cacchio, invece di essere tutti parlando, manco mal cazzo, tutti guaranecci minuti, ma non so quanta gente ci sarà in questa frequenza ascoltando, lascia perdere, va. E infatti, è quello che stupisce che non entrano a parlare, ma l'assolve. Sì, perché sono stanchi, lavorano troppo. E tutti sudati, in mezzo a ridere. Se le dà le pesate, mettimi le mesuere, ma la nubita, vedi, tutta sera. E infatti. Ma per loro è facile dire la figlia c'entra, la figlia sa. È un macello. Dico per tutti, è facile così incolpare le persone senza avere elementi, ma più anda più po' muglienti in trendica e andando a mulita frequenza, nessuno lo sa. Lui non c'è più nessuno, lascia perdere che non c'è più nessuno, ma non sono qua. Anche ho sentito un amico mio quando ero lì a Milano, lo stesso, anche lì proprio la frequenza è morta. È strano, Sì, è un bombo adesso è un bombo. Adesso funziona bene, sì. Effettivamente a questo punto. Ma adesso è nella sport, perché l'ho cambiata anche la batteria, a far cura, era giusto. L'ho cambiata anche la batteria nuova, perché pensavo che era della batteria che gracchiava, invece la batteria non c'entra niente, era il microfono. Ha detto mia moglie che è troppo alto, che sto diventando sordo. Cos'è, Natali? Concetta, ha detto che è troppo voce. E allora cosa ha fatto? Se vuole andare da Macone. Mi va a rivendare mai fammi. Ho detto che sto diventando sordo, perché ho detto che va bene. Cazzo, che troppo voce ha di te. Il vostro amico, voi avete questa radio. Pablo, che buono! Adesso già va bene. Ovviamente. Sì, rimettersi le cuffie nelle orecchie, almeno non mi sente. A dita a baciarlo, che troppo voci, ho tutto lunga. È la voce mia, Conce, è la voce mia così. Cosa mi devo abbassare? Cose vocali. Mi intesa, mi accendi ridendo. Cazzo. mai fare ridicchia. Manco Bombolino, Luca, cazzo, tutti morti sono. Questo è il canale dei morti, ma cosa che sono le 6 meno 10. La piaccia stare a letto, al caldo. Il canale dei morti e dei pensionati è quello. Che vita, cazzo. Per carità, la parlano bene in Italia. Ma non parliamo dell'Italia, se no ci viene un colpo. È uno schifo l'Italia, se ne stavano tutti i qua in Portogallo, in Germania, è anche uno schifo. È che mi fa zimare un'anca, se non mi devo andare in Brasile a mandare la zamba. È malo, Maro è in Brasile, non è una brutta idea, è che vi vuole denare, vi vuole denare. E allora? Sembra strano che oggi così chiude casa, ho bisogno di prendere i boni, per umare, per tutto. Grazie, tutti in mezzo abbronzati, da buoni veri, Natali, tutti in mezzo abbronzati. Allora, cosa ti credi che ci siano quelle col culo pallido come sono qua? Ui, qua non vogliono accidenti. E poi c'hanno il sangue caliente, lì le femmine. Io in Brasile, Emanuele, facciamo. Cazzo, anche la pressione ti diminuisce lì. Allora, in chi vino costa niente la roba, non è come te inocchino. Sei andato a fratello col genero, Emilio, no? Dice che cazzo, una villa di due piani, non so quanto voleva, 250 euro, una villa di due piani, ma 240 metri quadri di villa, però. Ah, ma è da un po', un amico mio che era giovane, tranquillo, al comune, se n'è partito perché dice che là fa la vita da una babbo con i soldi della pensione, invece qua avrebbe fatto la fame con i soldi che gli danno, ed era giovane tra me, questo qui. Cazzo, figurati, no, ma qua non fai una vita tranquilla qua in Italia, via, lascia perdere, cazzo, qua in Italia stiamo arrivando proprio alla frutta, non proprio, siamo già arrivati alla frutta, quando tocchiamo il fondo vedrai che cambierà qualche cosa. E bisogna che il popolo si ribelleggia, la cosa di anni fa, tutti lui era munita, anni fa, tutto va e niente a noi, non va bene così, la ricchezza vuole distribuita, no, a mangiare in pochi. Piano, sì, una ciappa di travaglio, un macello. Di dichiarazioni. Io mi auguro. Anche travaglio la ciappa, no, non sono dato. Sì, è quello che trovi il gatto di sfruttare al massimo. Tirate il gatto di 3,50 all'ora. Ma sa tu. E i gatti ti sfruttano al massimo. È lo sfruttamento, un gatto. E questi bastardi che li consigliano, perché non è certo farina del loro sacco quella, no? A sfruttare la gente. Sfruttano più che possono, ma la sorte. Lascia perdere, va. Che cazzo fanno la roba, con nervosi, il giorno che mi trovano proprio con la gomma piena, cazzo si esce in paradura, dice. E infatti, non può durare una cosa del genere. Cazzo, hanno voluto buttare a Meloni, mi. Ah, ma cazzo, sono senza travaglio e senza dinara, niente. Erano tutti contenti che volevano la Meloni, adesso succhiate la Meloni, succhiate, ma per carità. E vanno a casa loro, a casa della Meloni a mangiare adesso, cazzo, ne ha più la gamba di niente, chi va via bisogna avere, ne hanno impigliato un reddito di cittadinanza e quindi non hanno neanche quelli soldi, oltre a non avere lavoro, è un'ingiustizia. Passa la gente a Genova, a cosa, a dov'è che hanno intervistato, ha detto di la ciappa negata da Massa nei rigori, fa chissà. Sì, l'hanno già minacciata di morte, perché sono cose impopolari quelle che ha fatto. 10 kg e 3. Ah, padatti, chi si assegna di inclusione? Beh, un casino bisogna fare. Quando te ne danno pure, perché quelli che non arrivano a 60 anni devi andare a travagliare, fai tutta. Ma come si fa se ne andare a travagliare? Si travagliano fin'è. Boh, chi ti aveva voluto sapere? Ma è una massa di ma come dire, lavoro. Sì, il lavoro ce l'hai, se vai da c'è lavoro, ma ti sfruttano. Come ti gioco per Dio? Il lavoro, vai a lavorare. Infatti, un bel niente, non vi volevi andare a fare la stagione, a chi li fruttavano, li raziani quattro soldi, li raziani, magari burignetti, e non li raziani né contributi né niente. Ha capito? La gente non ci voleva andare per quello a lavorare, e ci avevano ragione. Hanno ragione, sì. Cazzo, la gente non va, la gente va a lavorare per avere qualcosa, non per cazzo curarli. Infatti domani non avranno neanche pensione questa gente, io non lo so dove andremo a finire di questo passo. Lui che pensione non ne vediamo, pensione, cos'è cazzo pensione? Cazzo la prendono a chi ce l'ha la pensione, figurati se ce l'ha la te. Fa un po' curarle. E infatti, è tutto un macello, Stava andando male. Se non cambia qualcosa, vedrai cosa succede. Aumentano le cose e i buchi bagni sempre i mattessi. Altri sempre in manco. Aumentano e i buchi bagni manco sempre. E infatti è quello, cazzo, siamo il paese che prende di meno di tutti, in Europa, in tutta Europa, siamo ricchi, chi piglia ne rimanco di tutti gli stipendi, chi si chiede a zinire, figurati chi si chiede a zinimare. Ma lo sai, Natale, stavano dicendo, adesso non so dov'è che prendono, la paga base che prendono a ora sono 12,50 euro. Un operaio, figurati! È dato 10 euro, a 5 euro quindi mancano i 7. Fatelo un conto, metti il cazzo qua a campanotti. E oltre a quello, ci vogliono i contributi perché magari ti assumono part time e quindi ti mancano anche i contributi. Perché è uno sfruttamento continuo. Che si cazzo di risindacati non serve, ne abbiamo un cazzo. A chi si sono tutti venduti? Però risinaia, rivoni, dallo stipendio dell'operaio. Loro già pretendono, e a te che se la fottono le balle, che ti ne rivolgano. E infatti, cazzo, quando travagliavo al comune, cazzo, pigliavo uno stipendio grandissimo, tutto trattenuto era, però, a me mi dà zia nei riccioli. Già lo so così, già lo so, per carità. Io già siamo messi bene veramente. Aspetta che mi sento un attimo, Natali. Eia. Su che andiamo. Su. Dario. Su che andiamo, Natalino. Andiamo a casa in Brasile. Dove ci sono le chiappe tutte abbronzate. E cazzo, ma papà della giamba mi devo far prestare i birri da qualcuno. Sì, già la parliamo lo stesso a Samba. Preoccupare che già si balla lo stesso, Natali. In senso, dai, pure Concetta può finire. No, no, tu no. Ah, Concetta la leghiamo lì nel letto. In senso, dai, io tutti o nessuno. Che te da pure può fare la brasilera. Vai, vai, che tu sei vecchia. Cazzo di avere da pure può finire. Cos'è, Natali, non ho capito. È da pure, ha detto che fracca, sai no, che ce ne può venire in Brasile con noi. No, io e Emanuele Sura andiamo. Ah, ma le donne lì non ci vogliono, non ci fanno niente lì in Brasile le donne. Chi è che vuole entrare? Fa entrare la tele, c'è una portante. Avanti chi vuole entrare? Non rispondi, non ripiga bene. Grave e notevole deperimento organico, con soffio al cuore. È così, è così la tarina. Cavolo, altra cazzone mia, ha avuto un incidente con quella macchina. Con quale macchina? Con quella che è morto, Morca e Tiziana. Sono morti annegati. Sì, vabbè. Se è morto Morca. Sì, ah. Ma un cantante. Tu cosa ne giochi? Da quelle grosse. Ma Morca è un cantante, si fa da X Factor. Buonasera, come va? Come va? È tardi, non si intende. È una cambia sessuale, mon ami. Come si va? Come si va, mon ami? Se va bene. Ha fatto una cambia sessuale. Allora, mon ami, Antoine. Oui, a me. Buonasera a tutti. Ciao Antonio, buonasera, dai. Sono un po' rocco, ho finito di cantare, troppo voglio cantare lui. Cavolo, tu già sono burati che non canto più, no? Mamma mia, guarda che dire, ma ti dico. Non a giocare in questo periodo, non a giocare, troppo nervoso, non ho più, non sono più spensierato come una volta. Eva, cantando ti passa, canta che ti passa la paura, diceva mamma. Ma che vadano a cagare tutti, che... ma non sono di buon umore, no? Ah, Antonio, tu siete beccati. Cagare, c'è una giusta morte, andate a scoprire, avanti Manuè. Stavate parlando voi, non mi fate entrare, picca e pongo, fate. Buonasera a tutti comunque, ciao Antonio, ciao Gianni, ben sentiti. Oh, ciao Manuè. Buonasera. Buonasera a tutti comunque, guardo. Buonasera. Buonasera anche a te. Scusate, non ho fatto ascolto. Non c'è problema, tu. Salutato, vai. Come ti sembra la radio di Emanuele, già? Tutta voce. Gianni, ho detto come ti sembra la radio di Emanuele, che ci stiamo sovrammodulando. Ho capito la Ho detto come ti sembra la radio di Emanuele. Perché ci siamo sovramodulati poco fa. Come lo senti, Emanuele? Io lo sento fortissimo. Sto già un po' cacre, un 50S ho già. Buffa veloce che te ce la rosa. un po' cattivino, quante ne gomma, Cosa c'hai sotto e cosa stai usando? Tu stai usando il presidente con qualche bignaretto. Il presidente? Cazzonari mi ha giovinullo. Non è microfono e portatile questo. Portatile sto usando. Vabbè, avanti a tu. Anche io sono portatile, c'è benissimo. Non esce così forte a tu, cazzo, questo è potente. La bella è gomma, perché credo manca appena. Però, c'è, io già ce l'ho, non esce così forte, ma esce bene. Esce benissimo, però questo qui è amplificato. Ma cosa? Amplificato? Che fenomeno, io lo sento così, non lo so qui. Se è precompresso il microfono, si è amplificato. E cosa ne so, cosa ruba l'acchino così, cosa ne so, sarà il portatile così, o l'avranno modificato, io non ne ho microfono. Fammi il filmato e mandamelo al portatile. Cos'è già? Fammi il filmato e mandamelo su WhatsApp. Mi si è rotto il telefono, cosa ha filmato, non riesco a mandarle il video. vai a Tari. Ma non vi credi che vai a portartile, no? Qui a giudizio se mi rubindì e non me ne può finì. A chi dice che l'è rimasto solo chissù? E tu cosa te ne fai se portatile? Vai a Tari, non ti fa il buddo. Ho detto che sta usando il portatile, se lo volevo comprare io. Altro avanti, questi qui mi vogliono prendere in giro, ma non ce la fa. Ma io mi altro un portatile che funziona bene. Ma non funziona come se chi sui Emanuele, io pure io chi sui Emanuele, pure io. Commenti che. Il mio c'è l'SP, il mio c'è il compressore, il mio ti sente bene, hai detto che è comodo. Oh già, e io? Perché lo mettiate voi? Masso. E vedi, se te lo sto dicendo. Arrivi Santiago 0, Radio 0. A mai dal portatile mio. Esatto. Questo è il portatile. Questo qua è il portatile. Sta bene. Ma no. Io ti tocco davvero, lo uso di notte anche. Ho commutato adesso, sono stazioni due. Ma quale c'è? L'antenna qual è? Quella antenna telescopica? Ah, l'antenna del tetto è cosa telescopica. Sì, ho capito che sei collegato con l'antenna del tetto, però quale antenna c'ha? Quella è gomma o quella è telescopica? Gomma ce l'ha. Ma io c'ho un portatile serio però, Questo c'è anche i canali, c'ha tutto. Che portatile è? Come? Intec. H520 Plus. Andava digitale. Sì. Vai già. E tu che modello c'hai, Favaggio? Intec 50S. Sì, 50S è da butte, non dice così. Ti sei buttito. Come la voce tua che c'è l'amplificatore interno? No, è la voce mia. No, sto usando il 50S, quello verde. Quello verde sto usando. Verde? Quello verde, è tutto verde la radio. Oh, verde non l'ho mai visto. Cazzo non l'ho mai visto? Guarda su internet a vedere. C'è anche il 38S, per dire la verità. E costano poco e vanno bene quelli. Alan 38S e c'è anche Alan 50S e c'è il cosa a LED lo stesso. Ehi. Avanti Natalino. Uia. Prenditela. Mi sono cartucciato poco fa, come c'è ho sentito le grida di tua moglie. Cazzo, mi ha zicchiso. Cazzo, c'è il microfono a uno, mi. Figurate un po' carico la volta che va. Lei c'è forte, c'è butto. E tu chi sta parlando per il calore in gola già? Ma la scaccia è sempre se porta dietro la televisione quando c'è. È molto amplificato quel microfono. Starebbe bene qua che non c'è nessuno che fa casino. Va bene. E tu cosa mi dai? Io te lo do. Un'aria molto. Cosa mi dai che te lo do? Io mi metto il microfono normale e ti do questo qui. Prova, lo voglio provare prima. Vediamo che ti rubi, chi sono che attaccata, che ti va la chino di bimbi, e sai, lo voglio provare, devi portartelo via per provarlo. Lo voglio provare se va bene l'attacco, non hai capito? C'ha l'attacco alla rovescio dell'omologato, a quattro pulie. E allora è uguale a quello dell'inket, del gas. Ma che microfono è Natale, fa male. Non c'è chi su che aiuta da coso, a dubbi da un punto di vista. Antonio. Allora, il MB4 questo è. E lei ha due adesso, mi. Si l'altro cazzo pare che vi sia un televisore a manetta, invece è basso. È il microfono che è amplificato. No, è una bomba, l'MB4 è una bomba, va benissimo. Figurati se lo metti nella Galaxy. Io ce l'avevo anche nella Galaxy. Io perché non c'ho quello qua? Nella Galaxy. E allora? Esce bene, cazzo esce bene nel MB4, cazzo io l'ho avuto anche nella, l'avevo messo anche nel Intec, il 546, sì. Cazzo mo qui sia a voi. C'ho anche il Turner più 3 io, quello originale, quello grigio, americano, che c'è scritto Plus 3. Quello l'ho avuto anche io, quello lì lo stesso è una bomba, meglio del MB4 è quello. l'ho qui sopra, non ce l'ho. Importante come la tua. E quello va bene a Gianni nella Galaxy. Quello che stavo usando poco fa è me. Carle. No, la notizia di Carlo. Come questo qui è. Ma la tempistica. Siccome io ne avevo due e uno l'ho dato ad Antonio. Ok, allora Carlo comunque. Sì, Antonio l'ha di nuovo modificato e c'è troppo voce. Sì, sono Antonio, pare così, ma è forse a virus. Cassa verde. È forse sì. Tanto è vero che disturba pure. E cos'è colpi figli da Antonio? Anche. No, non io. Chi se l'ha mentato, mi figlio. Ascolta, non sono stato solo io. Non mi piace. Qua la mia abbiamo portato non ero solo io. Quindi cosa devo dire? Mi dispiace, altro non posso dire. Lo so, ma anche loro, io qua di sette a volte abbasso lo squelch e via, forse studiare. Non posso dire altro, che posso dire solo che mi dispiace tanto, io uso la miglior cortezza che ci sia, però se chi tu entra pure a me. Cioè non è che la cosa cambi, no? E chi è che prende i colpi? Troppo. Ma poi la Pippina abbiamo contattato che non ribiglia assolutamente. E la ribiglia? Non ho capito la massa, vi siete sovramodulati, cos'è Artù? Ho detto che non li prende solo da me, li prende anche dagli altri, abbiamo constatato. Purtroppo i miei vicini di casa pigliano i goifi. Beh, cazzo, è normale che li prendano, se siete vicini, uno attacca dall'altro. Sì, io posso dire che mi dispiace, altro non posso dire. E cosa dovevo dire io? Non so se ti ricordi Natale che ce l'avamo io, Gio' Maria e Mario Mao, uno attacca dall'altro. E tu eri vicino a Mario Mao e a Gio' Maria, eri vicino così. E dovevamo stare nello stesso canale, sennò no era un casino. E infatti. Regale come si deve. Eravate attaccati proprio. Cazzo. Gio' Maria mi dava via a fianco. E io e Mario Mao e Gio' Maria mi dava via da Nazzi. Infatti. Io a Gio' Maria rincendio quando ero in macchina in via Giovanni Pascoli pigliavo colpi con l'Intec, no, l'Alan 48 ci avevo in macchina, l'avevo comparato nuovo, beh, l'ho dovuto dare, pigliavo colpi dell'altro mondo. Già lo so, l'Alan 48 l'ho avuto anche io, se no lo so via, il 40 canale, cazzo, va a fare i golpi pigliava. Ma in macchina mi cazzo, pigliavo colpi. Guarda, abbattimento mi vaziani, diciamo a Bucanari mi vazia pure abbattimento. Era altri tempi, ma non è piaciuto Gio' Maria, io va Gio' Maria, oh Natali, altri tempi, prima cazzo tutti i canti bombelli, oh i capo fava di più. Pure uno è stato tutto che avevamo un'antenna. Un antennino che tu stai sempre a 300 watt, ma ancora paura di che scia un poco. Sempre a 300 watt sta zia, una buona anima mio padre. Io l'ho usato, non ti dico male, l'ho usato un paio di volte, c'avevo un BV 131, e l'ho usato un paio di volte. Io lineare ti posso dire che non ne ho mai usato. Di volte c'avevo questo BV 131, l'ho usato un paio di volte e poi l'ho dato. E dopo la via da Amazasi è sempre attaccato, è per quello che lo sentivano un po', se no ui. Un asino. Cioè, alla Pippina non so cosa sussidia Boro. Sussidia che talmente da voi era bombente che si entrava la risonanza dall'alimentatore, cazzo. L'ha fulminato così me, dentro quegli alimentatori, quelli della Proxer di una volta, l'ha bruciato così me. E si lascia fatti l'antenna, l'ha avuto, l'antenna metta. Non ha crepato anche una. Perché con le antenne sono manganelli, non reggono nulla. Sì, della cribata un poco. Aspetta, mi stanno mandando un messaggio, sto ascoltando. Io sto prendendo il frequenzimetro digitale, quello da laboratorio, chi lo vuole? Quello lo puoi dire a qualche tecnico che magari c'è serve. I tecnici e la mano dritta, se non vanno in giù non fanno niente, perché è da laboratorio. Come stai là? Il prezzo suo è sulle 4,50, almeno 200. Magari c'è qualcuno a cui serve, prova a chiedere l'abitudine, se gli serve. E adesso mi hai dato l'idea, amici, la gira lo do a lui. Sta festeggiando? Magari gli serve per il laboratorio. Sì, infatti, loro li usano queste cose per mettere in sesto gli apparecchi, capito? Così possono riallineare gli apparecchi con quell'apparecchio. Ma mi sa che ce l'ha già lui. E lo credo che ce l'avrà, se no non ne puoi fare i travagli, se non vai strumenti uscici. Ma va, tanto. Non li puoi fare con una certa garanzia, perché cazzo, questo te li mette a posto di brutto. Ho provato con un portatile, mi subito mi ha detto la frequenza immediatamente. Vabbè, quello c'ha precisione, se non c'è quello lavori con precisione non li puoi fare. Non so quanti giri c'ha, adesso ti conto le cifre, lo accendo e ti controllo le cifre. Non lo sai quante cifre ha? 8 cifre c'ha. Quante? 8. E adesso ti mando la fotografia. E manda, da qui vado che lo guardo perché sta caricando il telefono. Vabbè, tutti 11. E Manuè. Io già, mi assento un attimo, vi ascolto. E io vabbè. Ma tu, che appello bisogna? Briciole! E non risponde fino al suo di colpo, boh. Briciola si è assentato. Assenteista, Natalino starà già mangiando. Chi è? Natalino, stai scendo un po' lontano, mi sento un basso basso. Natalino, stai scendo un basso. Cosa è successo? Ah, non lo so, vi siete assentati tutti senza dire nulla. A me mi hanno mandato dei messaggi e dovevo ascoltare, l'avevo detto io. Sì, sì, tu sì. Natalino è scomparso, come anche... Che cosa l'ha detto? Che si stava assentando un attimo. Chiappa. Ma come sta? Ma ha detto che stava. Ha detto che stava arrivando a basso. Ma tu eri chiamato, che hai detto Gianni? No, non ero io, no. Uno mi ha chiamato, mi sembrava Natalino, che ha detto Gianni. Senti, ma basso, tutto il giorno corretto. Chi sei? Attenzione al canale 10, c'è qualcuno? No, adesso no. Attenzione 10. Oh, anzi, e chi era? Non si capisce. Ma pure a me mi ha aperto lo squelch, non ho capito chi è. Tommy, chi è avanti che non ti sento? C'è qualcuno un bel basso. Chi è avanti? Chi è che fischia? Non lo so. Non lo so, c'era qualcuno che mi ha aperto lo squelch un bel basso. E vabbè, ci vuoi intendere. Se avevi avuto una cassa l'avrei sentito bene. Io ce l'avevo la cassa attaccata e l'ho sentito nulla. Ce l'ho sentito ma basso. Chissà care. Deve essere fuori, bu. Sicuramente, non lo so. Arrivava, se c'era appena il correo lo copriva. Chissà andi, A me mi è sembrato Natalino che stavo scendo male, poi infatti gli ho detto guarda che stai scendo basso. Però non lo so se era lui. Se fosse stato Natalino almeno 9 sarebbe arrivato. Cioè almeno un po' sarebbe arrivato. Okay. Dipende sempre dal difetto che c'è, se c'è il capo che non va bene o l'antenna che non va bene, il segnale è basso. Io ti stavo tirando un po' di ventola. Ventola? Vento un be alto. Molto, molto, molto vento. Ma col bergo, camera mia. Buonasera a lei, chi è? Sceriffo da Porto Torres, buonasera Antonio, come va? Cappa, sono Mantu. Una macchiata in là, come va? Mi ha riconosciuto, mi so. Ma come arrivi? Altro procede a sceriffo. No, mezzo correme lo sento, non molto bene. Salutoni sceriffo se mi senti, Mi senti, Mi ha detto 9, così è. 9 avevo 5. E io quando ti sto arrivando, sceriffo. Quanto ti sta arrivando? Proprio 3. Ma è lui però che io non riesco a sentire bene. Sì, anche apparecchio sta uscendo, di quelli di vecchiaia. Dalla 48. No, non me lo ricordo. Questo in plastica non me lo ricordo. E vabbè, è l'antenna che la stai usando. Ma l'hai messa sul tetto. Sì, Santiago 3, mi, Santiago 3, Radio 2. Ma le stazionali hai controllato i binari. Mi pare che non c'è massa lì. Andare a tu. KK, dai. Sembra lì abiti a tu. Via Sassari. Mi saluta a tu. Capa, non riesco a sentirti, prova adesso il sceriffo, che sono con la cassa. Capa, dai. Non stai arrivando benissimo a Sassari, sei basso, basso. Ok, riprendi già. Un attimo. Gianni. Sì che te l'ho mandato, lo sai cosa mi è successo? Non riuscivo a trovare il guatto, non riuscivo a uscire. Se sai cosa mi è successo? Allora eri tu l'Atari quando ti ho detto che non uscivi. Ehi, me lo segnava che l'apparecchio che non stava uscendo. Mi ero rotto nell'autobus. Ho toccato inavvertitamente come stavo accendendo quella roba là, no? Ho toccato inavvertitamente il commutatore, l'antenna del TM1000. Ed ero senza antenna. Sai come cosa scindimia? Bascio, magari darò tre poco. Infatti tu mi sembrava una voce natalino questa qua. Io te l'ho mandato quell'affare a fartelo vedere. Sì, vado a vedere, non mica è entrato anche lo sceriffo da 48 ore, cioè Natali, te lo ricordi a sceriffo? Sì che me lo ricordo, ma lo dicevo incomprensibile. Sento che parla ma non riesco a decifrare quello che dice. Lui sta facendo. Bisogna avere ricezione negli apparecchi. Avanti, sceriffo. Ciao a tu, ciao, ci sentiamo, buona serata, avanti, avanti Natali, prisa. Ciao Antonio, se mi senti. Giovanni Servitelli. Ok. Proprio la pista di Sant'Antonio Abate. Sì, Antonio Bombolo, mi ricevi adesso? Cazzo, ero senza antenna. Ma chi so che non riscende? Ma non riuscivo a trovare il guasto, cazzo mi usciva che non stavo uscendo, che c'era qualcosa che non andava. Ed ero senza antenna perché ho toccato, siccome c'ha il commutatore d'antenna questo TM1000, no? Avevo toccato quello lì inavvertitamente, ed è per quello che ero senza antenna. Oh, wow.